Reinardo. 16 febbraio. Ho incontrato sul corridoio un uomo anziano, che poi scomparve nella mia stanza. I rumori nella mia stanza sono sempre uguali. 18 febbraio. Ho visto in giardino una donna, sempre vicino a me. Sembra molto triste. Quando cercai di parlarle era sparita. 19 febbraio. Ho visto di nuovo l'uomo sul corridoio. Non sembra che metta paura. 21 febbraio. L'uomo venne da me di notte, sembrava molto contento. Mentre pregava rimase a lungo vicino a me e poi aprì un cassetto del comò come se volesse cercare qualche cosa. 22-23 febbraio. Ebbi molto male. Non sentii niente, né musica, né rumori. 24 febbraio. Venne l'uomo. Poiché ero stata consigliata di provare a non reagire a nulla, io feci così. Fu una cosa del tutto strana. L'uomo rimase immobile in piedi davanti a me fissandomi, sembrava che mi si portassero via le forze. Mi sentii debolissima, poi quello si curvò su di me, soffiandomi addosso. Fu una cosa tremenda. Volli continuare la prova e non mi mossi. Allora egli fece un urlo così forte che pensai dovesse crollare tutta la casa e disparve. Mi sentivo a terra. Egli mi aveva preso qualche cosa? Ma che cosa? Oppure era solo la conseguenza di una ipertensione nel resistergli? In ogni caso volli tentare ancora una volta. L'urlo fu sentito da mia nipote che pensò io avessi gridato nel sonno. 25 febbraio. Trovai l'uomo nella mia stanza quando volli andare a dormire. Feci finta di non vederlo. Mentre recitavo le preghiere della sera egli mi diede un pugno assai forte, come una persona adirata. Ma io non volli farci caso. Andai a dormire e spensi la luce. Lo sentivo vicino, nella mia stanza c'era molto rumore, sicché pensai di accendere di nuovo la luce. Allora quello incominciò a correre intorno alla stanza. Mi venne vicino e disse, «Perché mi resisti?» Non volli rispondere, allora si scagliò con tutta la forza su di me, cioè strinse il mio collo e con un grido pauroso disparve. Adesso credo che basti con queste prove, devo nuovamente reagire. Udita di nuovo la musica. 26 febbraio. Venne l'uomo gridando. «Io?» Che cosa vuoi? Sono pronta ad aiutarti. Lui, perché non mi hai ascoltato? Io, perché non volevo, va da altri. Lui, io posso venire solo da te. Io, chi sei? Lui, Reinardo. Perché non hai pace? Lui, ingannato. Io, perché hai aperto il comò? Lui, denaro. Io, come vi posso aiutare? Lui, santa messa. Io ho rubato. Era sparito. 27 febbraio. Reinardo fu qui per poco senza parlare. 28 febbraio. Venne Reinardo. Adesso non fa più così paura. Io, sei vissuto qui al castello? Lui, no. Dove sei sepolto? Lui, in Heidelberg. Io, perché vieni qui? Lui, perché il denaro l'ho preso qui. Io, allora puoi stare tranquillo che farò celebrare la Santa Messa. Se ne andò. Nessuno sa niente di questo Reinardo. Penso che forse è stato qui un tempo come domestico. 1 marzo. Molto fracasso. Ho visto anche nel corridoio una figura di donna. Di nuovo musica. 2 marzo. Durante il giorno ci furono molte ombre nella mia stanza e un po' troppo fracasso. 3, 4 e 5 marzo. Sono stata ammalata, non venne nessuno. 6 marzo. Una donna rimase con me tutta la notte. Ancora irriconoscibile. Parecchio agitata. 7 marzo. Ho incontrato la donna sul corridoio. Durante la notte un fracasso quasi insopportabile nella stanza, nel cassettone, sotto il letto. Provo tanta paura. Questa roba mi dà sui nervi molto più che se vedessi qualche cosa. 8 marzo. Di nuovo un frastuono quasi impossibile. Nel frattempo venne la donna, il suo volto è ancora tutto avvolto nella nebbia. 9 marzo. Stavo leggendo in camera mia. Improvvisamente fui travolta da una specie di temporale e io mi trovai in un denso fumo. Porte e finestre erano chiuse. Fu una cosa molto brutta. Mi opprime assai il pensiero che tutto continui a crescere. Eppure sono molto contenta, perché la sensazione della presenza di Dio mi prende così spesso, che vorrei scappare da tutto e restare in questa presenza. Solo che potessi descrivete questa cosa. D'altra parte sono convinta che tutto questo lo si può soltanto provare. Forse è ipertensione, ma non è un artificio da parte mia. Mentre mi trovo in allegra compagnia, esso sopravviene di colpo, ed io posso solo adorare, e questi secondi mi rendono felice per dei giorni. Io scrivo malvolentieri questa cosa, suona così fantastica, ma lo faccio nella certezza che lei, il suo confessore, mi dirà se c'è qualche cosa di sbagliato. 11 marzo. La donna venne 3 volte durante la notte, ora si riconosce benissimo. La sofferenza è come impressa nella poveretta. La sua bocca è gonfia. Strano che mia nipote la sentì venire nella mia stanza. Era proprio quella l'ora. 12 marzo. L'ho vista 5 volte durante il giorno, sempre come uno straccio. 14 marzo. Venne da me come nel fuoco. Io le dissi, ma dimmi chi sei? Lei, Ermengarda Montfort. Poi si gettò a terra e cominciò a piangere disperatamente. Mi fece tanta pena che mi inginocchiai vicino a lei e dissi, io faccio tutto quello che posso per te. Hai qualche desiderio particolare? Lei? Mortificazione. Io, mortificazione in che cosa? Lei, in questo corpo. E disparve. Se io fossi diversa quanto potrei aiutare? Grazie a Dio, che ora gli spiriti mi educano. 15 marzo. Lei rimase qui a lungo. Lei non è di quegli spiriti che mettono paura. Si ha soltanto compassione. Lei deve essere stata molto bella, soltanto la bocca è rovinata. Non ha detto niente, ma ha pregato volentieri. 16 marzo. Durante la notte si fermarono al castello dei religiosi. Quando venne Ermengarda lei dissi, vai un po' dai padri, che possono pregare meglio per te. Lei? Sono stata da loro ma essi non vedono. Io, si deve vederti per poterti aiutare? Lei, dai qualche cosa ai poveri, se essi non ti stendono la mano. Io, sei vissuta qui? Lei, no, ma qui ho peccato. Lei ha in sé qualche cosa di tanto profondamente triste che non ho mai visto sinora in nessun altro. Di nuovo udita la musica dopo lungo tempo. 17 marzo. Venne Ermengarda piangendo. Io le porsi il mio crocifisso dei morenti e lei lo baciò, non si riusciva a consolarla. Io, ma soffri così tanto? Lei, ma guardami. Sembrava cosparsa di fuoco, ma se ne andò subito. Verso mattina tornò. Io, perché devi tanto soffrire? Lei, per i peccati di lingua, ho creato divisioni, discordie. Non riuscii a capire il resto. Io, ti posso aiutare davvero? Lei, sì. Io, ma dimmi, non ci sono più persone che possono aiutarti. Lei, esse passano oltre. Io, come hai fatto a trovarmi? Lei, ho visto altre venire da te. Allora mi si accostò guardandomi con occhi assetati. Mi sentii così impotente, lei disparve. Io non so proprio che cosa posso fare ancora per lei, perché al momento anche i vivi esigono molto da me, e io posso dare così poco. 19 marzo. Ho incontrato Ermengarda 4 volte durante il giorno. Dal 20 al 27 marzo ho avuto l'influenza. Non visto né sentito il minimo rumore. Vacanze. 28 marzo. Ebbi la sensazione che c'era qualche cosa in camera, ma non vidi niente. Io, Ermengarda sei tu? Lei, sì. Io, dove sei stata tutto questo tempo? Lei, vicino a te. Io, perché non ti ho potuto vedere. Lei, non potevi dar niente. Io, ho pensato troppo a me stessa. Lei, sì. Poi la vidi di nuovo. Che cosa straordinaria, è vero, ero tanto sfinita, che non pensai affatto altro che questo, voglio starmene in pace. 29 marzo. Lei si sedette sul mio letto. Niente da temere. Abbiamo pregato molto. 30 marzo. Lei rimase con me parecchio durante il giorno. Le ho domandato tante cose ma non mi ha dato risposta. 31 marzo. Stava di nuovo tutta piangente vicino a me. Io, che cosa si può fare per aiutarti una buona volta? Lei, con l'amore. Io, ma io ho questo per te? Lei, non abbastanza. Poi ho pregato a lungo con lei. Non capisco bene come posso aver maggior amore per lei. Io do ciò che posso. 1, 2, 3 aprile. Di nuovo ammalata, di nuovo nessuno. 4 aprile. La vidi quasi tutto il giorno in tutte le stanze, corridoio e sulle scale. 5 aprile. Venne verso il mio letto con le braccia aperte. Le diedi le mie mani e le dissi, quanto spesso verrai ancora da me? Lei, dammi di più. Io, che cosa? Lei, la Santa Comunione, poi disparve. Anche questo è strano perché io feci sempre la Santa Comunione per mia nipote ammalata. 7 aprile. Durante il giorno mi ha veramente perseguitata. Era sempre lì all'improvviso e in ogni momento. 8 aprile. Venne di notte. Si gettò sul mio letto e mi abbracciò. La cosa non mi fa paura con lei e non me lo so spiegare. Lei però strappa più energie che non gli altri. Potrebbe però anche darsi che io sia più stanca per l'assistenza che do ai malati. 9 aprile. Lei rimase con me 3 ore. Le dissi, adesso ti do quello che vuoi, no? Lei, sì. Io, va meglio adesso? Allora passò sul suo volto come un raggio di gioia e fece un cenno. Io, ma dimmi sono della tua discendenza. I Monfort appaiono nel mio albero genealogico. Lei, sì, io, allora è per questo che sei venuta da me? Lei, no. Io, come hai fatto a sapere che io sono della tua discendenza? Lei, il sangue. E, una cosa del tutto particolare come io arrivai a chiederle questa cosa, perché essa era così totalmente diversa dagli altri. 11 aprile. L'ho vista a lungo. Durante la notte ebbi pace. 12 aprile. Lei venne di nuovo come volando nella mia stanza. Io, posso pregare con te? Lei, sì. Dopo aver pregato a lungo con lei, mi sussurrò qualche cosa, che purtroppo non potei capire. Sembrava parlasse in latino e suona come ex usuris, ma non posso dirlo con assoluta certezza. Poiché fu un lungo mormorio, potrebbe essere stato un versetto di un salmo. Nota. Ex usuris, in italiano, egli liberò le loro anime dall'usura e dall'ingiustizia. Così dice il Salmo, 71 versetto 14. 13 aprile. Lei arrivò in cappella mentre stavo mettendo in ordine i rami di palma. Io gliene porsi uno al che lei sorrise.